Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Con il progetto Cycle Logistic, l'Europa ha fatto il punto sul trasporto di merci in città con cargo bike. Parliamo di quelle biciclette attrezzate per la consegna dei pacchi. Questo perché con l'obiettivo di mettere a fuoco e con rigore scientifico punti di forza e punti di debolezza della bicicletta come mezzo per la distribuzione delle merci in città. Allora, vediamo che cosa ne è venuto fuori con l'aiuto di Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Benvenuta. Benvenuti a tutti quanti voi, grazie dell'appuntamento. Allora, intanto diciamo subito il potenziale, parliamo soprattutto diciamo del cosiddetto ultimo miglio, quindi della consegna delle merci, proprio la fase finale della consegna. Ecco, che potenziale c'è di consegna delle merci in città con bicicletta? C'è un potenziale molto molto interessante, oltre il 50%, circa il 51% degli spostamenti motorizzati sono possibili con biciclette adeguatamente attrezzate per il trasporto, e entro i 5-7 km con bici magari anche a pedalata assistita possono portare anche fino a 200 kg di carico. Ecco, poi ci arriviamo su questa cosa. Ecco, che intanto di che tipo di merci tipicamente parliamo, quali sono i servizi che potrebbero essere coinvolti? I servizi sono tipicamente quelli dell'ultimo miglio, e cioè magari entrare in un centro storico per consegnare dei pacchi di un certo tipo, oppure anche delle spese, del commercio locale che può utilizzare questo mezzo di trasporto per portare le proprie merci in giro ai propri clienti. Spesso succede anche solo di dover consegnare con velocità, per esempio, delle buste, dei documenti, e allora una semplice bicicletta con una persona è utilissima, perché in breve tempo riesce anche ad attraversare quei centri storici magari particolarmente difficoltosi per il traffico. È chiaro, è chiaro. Ecco, dicevamo tipologie di mezzi, ce ne sono per tutti i gusti, no? Assolutamente, i mezzi di trasporto ovviamente si va dalla semplice bicicletta fino a biciclette con due o tre ruote, con un cassone davanti o dietro più o meno attrezzato a seconda della tipologia della merce che va consegnata. Talvolta questi mezzi un po' più grossi vengono utilizzati anche per delle pubblicità, certo, per un modo certo. Anche per ritornare di alcuni costi. Ecco, dicevamo che si arriva fino a 250 kg per i mezzi un pochettino più grandicelli. Senta, ma tempo atmosferico, se piove, se gela, come dire, se il territorio come quello della città di San Francisco, abbiamo visto tutti nei film queste salite e discese, forse lì la bicicletta... Magari forse no. Lì quel tipo di mezzo un po' più pesante può essere un po' più difficoltoso, mentre quei film lì per esempio ci fanno vedere questi Urban Bike Messenger che consegnano velocemente magari la busta, la documentazione, senza grossi problemi. Come non è un grosso problema la pioggia o il tempo, va da sé che un territorio un po' più pianeggiante con un centro storico certo. Un po' più compatto aiuta certo. Insomma, non serve Pantani, no, per consegnare, no, assolutamente. Ecco, veniamo ai benefici economici, che sono un po' come dire, il pezzo forte di questo studio. Beh, innanzitutto il mezzo costa praticamente un decimo rispetto a uno di quelli normali, e quindi non c'è gasolio, non ci sono costi di bollo o di sosta, mediamente il prezzo può variare da un meno 20 a un meno 70% cioè, dei costi. Il costo di consegna del pacco è decurtato dal 20 al 70% a seconda dei casi, che certo, possono essere certo. Molto diversi. Diciamo mediamente il 50% in meno. Se vogliamo citare un esempio, in Olanda un grosso operatore, senza fare nomi, ha sostituito i suoi 33 furgoni con 33 cargo bike e ha stimato un risparmio di 430.000 euro in un anno. Beh, già si capisce dal fatto che si possa sostituire un furgone con un cargo bike, quindi un rapporto 1-1, non aumenta neanche il numero dei lavoratori. Diciamo in qualche modo che l'Olanda è particolarmente predisposta. Certo, certo, perché è bella piatta, ecco sì. Ecco, e comunque operatori, e qui veniamo forse agli altri benefici, quelli non economici, ma sono delle ricadute che a livello di società sono importanti, che sono quelli ambientali naturalmente, e per la salute del... No? Assolutamente sì, sempre citando il caso dell'Olanda, in un anno hanno stimato un 152 tonnellate di CO2 in meno, questo è per citare sempre lo stesso caso, ma lo stesso operatore lo stesso dipendente ha sicuramente un vantaggio, il fatto di fare un'attività così dinamica con questa attività fisica ha sicuramente un risvolto straordinario sul beneficio per la salute di questi dipendenti. Ovviamente va da sé, c'è anche un vantaggio di tipo urbanistico, provate a pensare questi N camion che viaggiano per la città e che hanno anche un impatto visivo, hanno bisogno di spazi che sono certo sempre molto preziosi, quindi i vantaggi sono veramente numerosi. Va bene, grazie a Giulietta Pagliaccio, ci fermiamo qui ma riprendiamo domani questo discorso così interessante. Grazie a voi. A domani.